吼， 是我 呀呀， 咱们大柱子， 苏卡达，算把他苏兰达就 style 可以啪啪。Pô, bomba, tu ajusta a causa, eu sou que te veio, seu siga em mim. Jogando de shield, eu não sempre, essa goza pedra. Sempre, sempre, sempre, sempre goza pedra e iaiau. Smoke a da style. Sticky icky, sticky icky. Smoke a pedra e pedra e pedra e sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smoke a pedra e pedra e pedra e sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smoke a pedra e pedra e pedra e sticky icky. Sticky icky.Smocata, questa è la cultura che ha come una bossa. Gente sintetica che si ascolta e saluta te già. Smocata, questa nostra cura, poche fure e pari che ti dipendi fa passavo su di noi. Smocata, che manco sa giustizia prima da chi ho di sti chicchi è sempre pronta a cantare. Smocata, che caldo smocca, sa di doppa, se sbrocca, sa suba testa società di Dio. Smocata, e non ci da vente dove mai. Sticky icky.De Bruzzo, sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smoca pedri, pedri, pedri, sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smoca pedri, pedri, pedri, sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smoca pedri, pedri, pedri, sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smoca pedri, pedri, pedri, sticky icky. Yeah, gasso, è surandaggio da vesta, è su stesso modo.Tocca da suo e mo' mi tu mi fai intendi Vagova. Fai mi tu intendi suo. Tocca gammi da pazzo, io un gaganto no braccio. Ananta sul giustino impara sa cricca tagazzo. Non ci credo si impasto, non ci penso ne manco. Saberi da arrivare la schimacci che tra i quattro franco su. Tocca smocca aio. Gangia bruzza Mario camicina mi di quella da soggiarna. E coltiva da coppai. Asi non ca voglia su di nai ma smocca da. Custa cultura non da voris fi mai.Fumo allora rolle sigaro dai. E asi vorno in galera e sti beso chi mai. Vo' quattro matta sa de erba ma la deri fai gottai. Oh e su questo andaggio sardo passa legalizzazioni. De quattro sacro cori vinza settori. Voro tu sa nazioni sarda. Smoccata goppai. Sticky icky, sticky icky. Smocca pedri, pedri, pedri, sticky icky. Sticky icky, sticky icky. Smocca pedri, pedri, pedri, sticky icky. Sticky icky.Bidri, bidri, bidri, sticky icky, sticky icky, sticky icky. Smoca bidri, bidri, bidri, sticky icky, sticky icky, sticky icky. Smoca bidri, bidri, bidri, sticky icky, sticky icky, sticky icky. Smoca bidri, bidri, bidri, sticky icky, sticky icky, sticky icky. Smoca bidri, bidri, bidri, sticky icky, sticky icky, sticky icky. Smoca bidri, bidri, bidri, sticky icky. E de triglietta chi da smoccara. La sottobanco si da smoccara. E sacco cori si da smoccara. Doppa